si yo, viene lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io provo una sorta di perversa e detestabile ammirazione per il truffatore. Non saprei dirvi perché, forse perché un po' truffatore lo sono anch'io. Chiunque parla come motivo principale per procurarsi, da guadagnarsi la vita, quindi naturalmente un po' truffatore lo è. Usare le parole, usare l'artificio, usare il senso del convincimento è già truffare il proprio prossimo. Io probabilmente lo faccio senza chiedere nulla in cambio, senza modificare le esistenze, senza turlupinare, senza appropriarmi di beni materiali altrui, forse beni immateriali, ma sono quelli che si rigenerano, che in fondo non creano vulnus, non creano danni. Chi è il truffatore? Il truffatore è colui che stabilisce che a un certo punto la sua esistenza, il quoziente di vulnerabilità del suo prossimo è talmente alto che lui vede che facilmente, con i mezzi di cui l'ha dotato la natura, può approfittarsene. Ancora a Piazza Vittorio, mi dice Fabrizio Intonti, che spesso ne è vittima, ci sono i ragazzi in coppia che danno la bufala del cellulare finto. Ti ferma un ragazzo e dice, guarda, non ho i soldi per il biglietto, devo andare a casa, moglie malata, madre malata, bambini in lacrime, via dicendo, mi vendo questo cellulare, l'ho appena comprato, ma tanto non ci faccio niente. Mostra un modello cellulare di ultima generazione, bellissimo. Colui che merita di essere truffato perché vuole appropriarsi di un bene altrui approfittando del momento di disagio, quindi il truffatore gioca sempre sul fatto che c'è una cattiva coscienza dall'altra parte, dice beh è un bel affare, quanto vuoi, 50 euro te lo do, guarda ne vale 3.000, vale 300, via dicendo così. Il momento in cui l'acquirente molla la banconota da 50 euro e sta per prendersi il cellulare, e con un movimento velocissimo il truffatore, che ha un suo complice, mette in mano un cellulare completamente identico, ma è soltanto il guscio, e dentro è pieno, quelli che ho visto io erano pieni di DAS, di plastilina, di materiale comunque aveva un certo peso, sufficiente a simulare il peso del cellulare. In pochi istanti la truffa è fatta, ma la stessa cosa si fa ancora alle stazioni di servizio delle autostrade, vendendo videoregistratori, telecamere, via dicendo. Ancora si vedono per strada quelli che fanno le tre carte. Sembra impossibile, non c'è mercatino romano in cui non c'è facce da patibolo, si vedono benissimo a un chilometro, dice ma questi qua io non vorrei nemmeno circolare nel raggio di 6 metri dai loro mani, eppure ancora gente si ferma e non si capisce bene chi sia il complice, chi sia il pollo. Beh, i truffatori ancora segnano il punto. Beh, questa mattina noi vorremmo sentire dalla viva voce di un truffatore esattamente qual è il senso di soddisfazione, che secondo me va oltre il bottino quotidiano che è il frutto della truffa perpetrata ai danni dell'ingenuo o dell'ambizioso o del personaggio privo di ogni coscienza, che accetta di essere vittima della truffa perché pensa di potersi approfittare di un'occasione unica al mondo, sempre a danno di qualcosa, di una situazione rischiosa, di una situazione difficoltosa. Siete dei truffatori? Questa mattina vediamo garanzia dell'anonimato, però vogliamo sapere qual è la profonda e inestinguibile gioia che provate ogni volta che truffate una persona per strada. Questa è la famosa fontana di Trevi, appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette, cavaliere ufficiale Antonio Trevi. Complimenti, Decio Cavallo. Come? Decio Cavallo. Ah, avevo capito Cacio Cavallo. Sì, un po' paesà, è un buon bisinista. Ottimo, ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche ci girano le pellicole qua. Ok. Sembra niente. Ma la mia fontana è fotografata un migliaio di volte al giorno. Fate un po' i conti, paesà. Sono circa $160 al giorno. Proprio un bel business, ok. La più classica è imprevedibile e in fondo ingenua truffa, il conte Trevi, Totò che vende la fontana di Trevi. Sembra paradossale, ma ancora è possibile leggere sulle cronache episodi molto simili. C'è un grande flusso di turismo di massa che viene da paesi che sono dotati di un forte tasso di callidità, di furbizia alle loro latitudini, ma una volta che vengono da noi, immersi nel ventre molle della culla di tutte le civiltà, almeno come vedono città storiche come Roma, come Firenze, non è del tutto improbabile che anche loro cadano in truffe molto simili. Carabinieri! Facevano irruzione in studi medici, rapinavano ricettari in bianco che successivamente compilavano ed usando dati anagrafici di pazienti ignari e timbri falsi di medici inconsapevoli, prescrivevano specialità medicinali costose. Apparentemente sembra una vecchina come tante che allo sportello di una banca ritira la sua pensione, ma in realtà lui, perché si tratta di un uomo, è Thomas Prusik Parkin, 49 anni. Falsi infermieri assunti in cliniche private e in strutture pubbliche, alcuni addirittura dagli anni 70, con un falso diploma comprato da un'organizzazione a carattere familiare che riproduceva e vendeva i titoli per cifre dagli 8 ai 15 mila euro. Si scopre in pratica che esami tra i più difficili che i laureandi sostenevano di aver superato riportando data, votazione e nome del docente, in realtà non sarebbero mai stati sostenuti. Il truffatore è dotato di una grande fantasia. Il truffatore, sia quello storico, quello moderno, quello contemporaneo, il piccolo truffatore da piazza del mercato, al grande truffatore che riesce a mettere nel sacco le grandi multinazionali, hanno profondamente una grande creatività. È indubbio che il truffatore sia un creativo, è indubbio anche che sia una persona priva di scrupoli e priva di pietà per il proprio prossimo, ma è altrettanto, ripeto, colpevole probabilmente molte volte, in molte circostanze, anche il truffato. Paolo, lei cosa ne pensa? Buongiorno, dottor Nicoletti. Se posso permettermi, vorrei dirle che lei è un antipatico simpaticissimo, cioè dal quale apprendere comunque tante cose. E io faccio il venditore. Ma dov'è la truffa in questo? No, la truffa è che bisogna ascoltarla bene. Cioè, bisogna leggere tra le righe, e questa è una cosa sempre e comunque importante. Sì, però con la mano al portafogli, perché ho sempre un complice, sì, che mentre voi, voi mi ascoltate si approfitta voi. Al punto, sempre. Lei è d'accordo che il truffato molte volte è complice del truffatore nel suo desiderio, certo, di cogliere la, certo, grande occasione? Certo. Io sono affascinato nel senso negativo dalla signora Vanna Marchi. Se domani nascesse un'altra signora Vanna Marchi, ci sarebbe altrettanta gente pronta a regalare il proprio denaro, quasi che non ne avesse bisogno per altre cose. Qui a quel punto, tra virgolette, sì, mettiamola in carcere perché è una disonesta, però interroghiamoci. Sì, è anche vero, Vanna Marchi, la figlia, il Don Nascimento e tutta la banda del buco che per anni mi ha affascinato, io li descrivevo, li raccontavo perché era materia palpitante della televisione che allora commentavo nell'ingiusta veste di critico televisivo, avevano le loro colpe e stanno, certo, pagando, certo, per le loro colpe, ma anche quelle vecchie infami che mettevano decine e decine di milioni per comprarsi il siero della salute o la formula di salvezza per avere i numeri all'otto, altrettanto infami erano, sì, certo. Se posso permettermi, io faccio il venditore, non reputo di essere un disonesto, però tante volte sono costretto ad adeguarmi al mio interlocutore per poter parlare la sua lingua. Io non vorrei mai imbrogliarlo, però devo in qualche modo, altrimenti non vengo ascoltato. Mi faccio un esempio, cosa vende lei? Io lavoro sui mercati nordafricani. Cioè vende schiavi, cosa vuol dire questo? No, assolutamente, però se percepisco che il mio interlocutore comprende solamente il discorso del prezzo e non della qualità, io devo adeguarmi in qualche modo ad un discorso che è virtuale, non completamente reale, ma è l'unico linguaggio che il mio interlocutore comprende. È un po' imbrogliato. Ma da me viene qualche brido, mi fa venire in mente Alberto Sordi che va a vendere le mitragliatrici nei paesi africani. Specifichi un po' meglio. Non vendo prodotti complementari per l'edilizia. Ecco, delle volte la qualità è difficile da far capire che è un valore nel tempo, no? Quindi lei vuol dire se la cercano proprio, quindi gli mando 6 container di tondino difettato, tanto sono contenti lo stesso. No, assolutamente, però devo questo sarebbe imbroglio, io non faccio l'imbroglione. io mando il prodotto di qualità, però nello stesso tempo devo adeguarmi al linguaggio dell'interlocutore che non punta alla qualità, spesso e volentieri punta solo al prezzo, che è un discorso virtuale. Quindi chi subisce la truffa ha sempre l'illusione di fare il grande affare, pensa di essere furbo, ecco così, il truffatore trova sempre qualcuno che pensa di poter fare il grande affare. Sì, sì. Grazie, sono... Giuseppina. Ci sono... Cerco di fermarmi perché purtroppo sono in autostrada e la corsia di emergenza, adesso sono in uno spiazzo. Quando ho sentito Non mi dia la responsabilità della sua giovane vita, signora. No, assolutamente, adesso sono passata in viva voce. Ecco, perfetto, la sentiamo anche meglio. Andiamo al punto. Allora, dunque, io volevo intervenire perché quando ho sentito l'argomento mi è venuto subito da sorridere ricordandomi una cosa che raccontava mio papà, che ormai è deceduto. E penso che nella truffa ci sia anche un elemento, non sempre, voglio dire, dall'altra parte si vuole fare l'affare, ma l'elemento sorpresa. Nel caso specifico, mio padre mi raccontava che fuori dal tribunale di Torino, negli anni 40-50, forse si era anche meno pronti, meno istruiti, non lo so, ma penso che l'elemento sorpresa giochi veramente un ruolo importante, c'era quello che adocchiava chi aveva una bella giacca e diceva, si presentava chiaramente un po' dimesso, dicendo devo presentarmi in tribunale, non mi lasciano entrare se non ho una giacca, e uno veniva colto, come dire, poverino, deve andare in tribunale, non tutti siamo avvezzi ai tribunali, quindi non sappiamo come ci si presenta in tribunale, soprattutto in quegli anni, e quindi qualcuno gli mollava lì la giacca e rimanevano in maniche di camicia, questo se ne andava, cioè faceva finta di entrare in tribunale, dopodiché se ne andava. È una bella truffa proprio legata agli anni della ricostruzione, ancora dello spettro della fame, truffare per oggi una giacca, nessuno andrebbe a perdere tempo a rubare una giacca, sinceramente. Però è interessante. Però mi viene in mente un'altra, io non so se questa è una truffa o meno, di qualche anno fa, in cui ad Aosta, io lavoravo per una catena di negozi, in cui ad Aosta qualcuno si era presentato a dire, una mamma si era presentata a dire, mio figlio è a casa allettato, si è rotto la gamba, eccetera, eccetera, non può venire a provare, andavano di moda dei camperos molto costosi. Certo, come me li ricordo, il sogno erano gli anni, diciamo metà degli anni 70. No, un pochino dopo, comunque. Inizia i primi camperos importati in Italia, andava a prendere. Tava Perugia. Sì, sì. Erano costosissimi. E anche lì c'era una truffa, c'era l'amico più scafato. La signora chiedeva per la gentilezza, proprio per questo figlio che era con la gamba ingessata a casa, voleva portargli a casa la cosa, di dargli il destro. Poi si presentava nel negozio di Torino e chiedeva il sinistro e si faceva il paio. Sì, questi davano uno stivale così, sulla parola. Ma sì, perché, voglio dire, se uno ti chiedi cosa te ne fai di uno solo, e quindi uno ti dice, magari ti dice pure, ma se vuole le lascio anche i soldi, e uno dice, ma no, perché ti sentiresti proprio, come dire, ma non mi fido. E quindi questa si faceva dei paia. Vabbè, interessante, lo stesso lavoro si può fare con qualsiasi, con i calzini, con i guanti, non si può fare naturalmente con i pantaloni, perché dire che il figlio ha soltanto una gamba e prendere mezzo pantalone non varrebbe, però mi sembra intelligente e astuta anche come truffa. Però adesso vorrei passare a un esperto, a uno storico delle truffe, che abbiamo già avuto in trasmissione qualche giorno fa, ma ci ha affascinato il suo campo così vasto di interesse. Domenico Vecchioni, buongiorno. Buongiorno. C'è qualche ritardo per perché... avermi di nuovo invitato. Sì, poi soprattutto ci affascina il fatto che lei sia a Cuba, quindi nel cuore della notte ci ascolta alla radio e ci interviene al telefono. Ricordo che Domenico Vecchioni è ambasciatore d'Italia a Cuba, quindi un vero ambasciatore, esperto di storia mondiale dello spionaggio, abbiamo avuto tempo fa a parlarci di spie, ma ha anche scritto I Signori della Truffa, edizione Olimpia. L'uomo che vendette la Tour Eiffel e altre incredibili storie di impostura. Noi abbiamo iniziato, ambasciatore, con una carrellata sulle truffe contemporanee, ma lei che è uno storico, qual è il punto comune che lega i grandi truffatori della storia? Ma io sono d'accordo con quello che è stato detto, cioè che la truffa perfetta è quella in cui il truffato in qualche modo è complice del truffatore, come diceva lei, cioè un furbo che trova qualcuno più furbo di lui. Oppure quando la truffa ridicolizza in maniera tale il truffato che il truffato rinuncia a qualunque tipo poi di denuncia, appunto perché si rende conto che è stato oggetto, diciamo, di un aggiro che dopo sembra addirittura incredibile che ci possano essere persone anche di alto livello intellettuale, tanto ingenue da cadere in certe trappole. Ma davvero qualcuno ha acquistato la Tour Eiffel? Ecco, infatti lo sketch di Totò, no? Il famoso sketch di Totò che ho sentito prima, e ci dimostra come nel mondo della truffa in realtà è la fantasia che imita la realtà, cioè gli sceneggiatori del film di Totò non hanno inventato nulla, perché vendite impossibili ci sono state. E infatti questo signor Victor Lustig, che era un truffatore di grande classe, effettivamente riuscì a in qualche modo a vendere la Tour Eiffel. Pronto, ambasciatore? Sì, mi sento. Ah, no, pensavo, pensavo che era caduta, dato la lontananza. E quindi la persona che avrà acquistato la Tour Eiffel non potrà certo poi andare a raccontare al mondo che era stato così cretino da pensare che fosse in vendita la Tour Eiffel. Quindi... Esattamente, e infatti la vittima di questo raggiro, che poi destini dei nomi, si chiamava Monsieur Poisson, signor pesce, proprio un pesce caduto nella trappola di questo Lustig, riuscì a fare la denuncia, perché si rese conto che andare a lamentarsi di non aver potuto acquistare la Tour Eiffel era piuttosto ridicolo. Poi c'è il grande filone dei falsari, anche quello è una maniera di truffare il prossimo che richiede comunque una manualità, un'arte particolare. Il vero truffatore è colui che usa l'affabulazione, costruisce universi fantastici e vende il nulla. Poi esiste colui che si applica e magari riproduce quadri, opere d'arte, oggetti di valore. Sì, beh, abbiamo un caso molto famoso di un olandese, Van Meegeren, che diciamo fu accusato di aver venduto dei quadri preziosi ai nazisti, e quindi per evitare la condanna per collaborazionismo con il nemico, disse che in realtà i quadri li aveva dipinti lui. Ma nessuno li credeva, perché non erano imitazioni di quadri antichi, ma erano quadri come li avrebbe dipinto il pittore interessato. E per farsi credere dal tribunale dovette dipingere proprio davanti agli esperti del tribunale per dimostrare che il falso era lui, il falsario era lui, e che quindi preferiva una danna come falsario piuttosto che come collaborazionista. Quindi invece che collaborazionista poi divenne un eroe, in fondo ha contribuito alla sconfitta del nemico. Sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno, velocemente, cosa le è successo? Buongiorno, no, velocemente volevo raccontare un aneddoto che mi è capitato qui a Prato, che andai in bicicletta al supermercato a comprare poca roba, no? E nel tornar via vidi un fuoristrada, una bella macchina, che mi suonò e vidi una mano e mi salutava. Io lì per lì non vedevo nulla perché c'erano i vetri oscurati. Questo abbassa, dice: oh, ciao, come va? È da tanto, non ti vedevo. Ma io veramente non mi ricordo. Dice: ma te 10 anni fa mi hai aiutato, mi hai fatto lavorare con te. Ma io continuo a non ricordarmi, scusami, ma sai, 65 anni e qualcosa. No, dice: vieni in macchina, devo parlare, perché a me ora le cose sono cambiate e ho sposato una che ha una fabbrica di pellame e noi facciamo giubbotti. Dice: anzi, che misura hai? La XL. Ah, ecco, preciso, guarda, questo è per te, 1300 euro, per te regalo, perché sei stato bravo con me. E dov'era la truffa, che devo lasciare la linea? Sì, ah? Come finisce allora? Perché devo finisce mollare che la linea. Fine, mi aveva dato 2 giubbotti, uno per me e uno per mia moglie, e mi fa, dice: sai, l'unica cosa, ho da fare benzina, se tu mi dai qualcosa. Dico: ma io sono un pensionato, ti posso dare 10 euro. Mi levò il giubbotto, mi disse: allora se non te li metti, pazienza. È finita così. Lui aspettava 50 o 100 euro. Per loro sono gente che parte la mattina. Sì, ma i giubbotti lei se li teneva, erano giubbotti, vanno ancora meno di 100 euro. Ecco, ora con 10 euro non ci stava più. Ah, vabbè, cioè le voleva vendere 2 giubbotti probabilmente di plastica. Grazie. Melog 2.0. Ho 800 24 0024. Vedo che stanno arrivando a bizzeffe le segnalazioni dei truffati. Le truffe sono sempre le stesse. Più se ne parla e più è facile qualcuno caschi nella truffa. Mi scrivono su Facebook di genitori che hanno acquistato il fantomatico videoregistratore alle stazioni di servizio dell'autostrada. C'è una bellissima della Roma-Napoli, dove ci sono dei cartelli grossissimi: non accettate merce per nessuna ragione. Ma ancora mi parla questa signora di un padre che è tornato a casa felice con lo scatolone del videoregistratore. Dentro c'era naturalmente il solito mattone con un bel frontalino finto, addirittura c'è anche l'orologio con l'orario aggiornato. E invece Tiziano, buongiorno. Sì, buondì, complimenti per la trasmissione. Due fatterelli, uno mi è successo circa 25 anni fa, avevo 20 anni. Si sbraccia un personaggio di fianco alla strada, no? Con l'auto ferma. Vabbè, io pensando che avessi bisogno mi fermo, accosto, e questo apre dietro il baule, era pieno di capi d'abbigliamento in pelle, un certo valore. Ma sempre i venditori di giubbotti, è una piaga che non conoscevo. Quindi, ecco, questo 25 anni fa. E allora mi fa vedere questo giaccone in pelle, mi dice, guarda, 50.000 lire, ho dei problemi, devo... E io allora, con tutto contento, ho fatto l'affare della mia vita. Vado a casa, mostro i miei... Beh, il giorno dopo non l'ho più visto. Mia madre l'ha preso questo affare e ha detto, Tiziano, non farne più. Ma perché era schifoso il giubbotto? No, probabilmente lei dice, io non so da chi arriva. Ah, quelle cose che dicono le mamme, non si sa da chi viene. Perfetto, su un ode chi l'è, allora... Sì, dunque, questo... In anni molto tristi, molto bui, che io ricordo con grande disagio, come dissi ieri, sono gli anni 70, andava molto di moda andare a comprare l'usato ai mercatini, dava quell'aria stazionata da eterni guerriglieri. E le madri, quando uno arrivava a casa con l'abito usato, la giacca usata, il pantalone usato di cui andava fierissimo, ce lo buttavano via perché dice, non so da chi viene, chissà chi se l'è messo, chissà le malattie che ci sono attaccate. Quindi probabilmente però quel giubbotto non era proprio una truffa, era magari un incauto acquisto di qualcosa che valeva meno, no? No. Può anche essere, ma... Comunque lei si è lasciato commuovere dalla situazione miserrima di quello che la vendeva. Quindi un primo motivo di diffida è quello sempre di stare ad ascoltare le situazioni disperate di chi ci vuole vendere qualcosa. Massimiliano. Buongiorno, io sono stato truffato, ma paradossalmente faccio un elogio al mio truffatore. È stato bravo. Preciso, e sono un venditore, quindi piuttosto diffidente, molto diffidente nell'acquistare. Alcuni anni fa in autostrada, tornando dalle vacanze con la famiglia, mi fermo in un autogrill vicino Bologna e mi avvicina un ragazzo di origine ovviamente napoletana, e io, accettando la sfida, quindi sapendo il rischio al quale sarei potuto incorrere, e mi mostra un telefonino notissimo allora, ma era introvabile. Allora io, sapendo che questo mi voleva truffare, ho detto, guarda, io non ho molti soldi, apposta per tirare giù sul prezzo, no? Infatti il prezzo era molto interessante, ma sapevo il rischio al quale dico, però fammelo provare, perché sapevo di telefonini che poi non erano passati. Allora questo mi apre il telefono, mettiamo la mia SIM, io faccio una telefonata e faccio stare un suo numero privato, dice, guarda, chiama il mio, quindi io sono di fronte, lo chiamo. Tutto funziona, tengo il telefono in mano, tolgo la mia SIM, questo mi ho perso di vista, ma un secondo. Ma certo, quello che basta. La scatola, questo qua ha, mi ha dato la scatola, io l'ho subito aperta, no? Ho visto che, me ne sono accorto immediatamente, questo ha fatto un salto proprio da acrobata, ha scavalcato una balaustra, è saltato in macchina e mi ha detto ciao ed è scappato. Io questo, se l'avessi visto all'autogrill dopo, gli avrei detto, guarda, te sei un genio, sei un acrobata, sei, tu devi fare la televisione. Quindi, diciamo, non mi voglio lamentare, ho accettato la sfida, l'ho persa, ma questo, se lo riconoscessi ancora oggi... Però non se ne esce, la procedura è sempre la stessa. Quando vendono il telefonino pacco, lo dico perché conosco tante persone che sono cascate, lo fanno provare, funziona veramente. Una persona che conosco io addirittura aveva memorizzato nella sua SIM il numero di telefono del truffatore, l'ha anche chiamato, e l'altro ha detto, beh, che vuoi fare, ormai c'è, così è andata, così è velocissimo. Il momento che uno entra in contatto fisico e diretto col truffatore, è inutile che si illude di poterne uscire, perché in una maniera o nell'altra ormai la truffa non può che subirla. Domenico Vecchioni, ancora in linea? Sì, sono qui. Ricordo, ambasciatore d'Italia a Cuba, in collegamento con noi da Cuba, autore dei Signori della Truffa, edizioni Olimpia. Allora, queste moderne truffe di cui stiamo parlando e riparlando, ma parlarne non impedirà ad altre persone di subirle ancora chissà per quanti anni, quanti secoli, affondano le radici in qualcosa che storicamente lei ha studiato e analizzato? Ma infatti, mi pare che credulità stupefacente della gente sia una costante. Se lei pensa che personaggi come Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, che tra l'altro era l'investigatore più razionale della storia letteraria, fece convincere da due ragazzine, sulla base di due fotografie truccate, dell'esistenza delle fate. Conan Doyle, fino alla fine della sua vita, credette nell'esistenza del mondo degli gnomi, delle fate, del mondo incantato. E quindi c'è questa predisposizione dovuta, come si diceva prima, a motivi diversi, a volte a vanità, a volte a debolezza, a volte al miraggio appunto di fare degli affari, ad essere ingannati. Lei quale ammira di più di tutti i grandi truffatori che ha analizzato nel suo libro? Quale trova che sia più geniale? Ammirare probabilmente nessuno, però perché le grandi truffe raramente finiscono bene, ad eccezione però di qualcuna, quella, la storia interessantissima, conosciutissima peraltro, di Franca Bagnale, oggetto di un film di Steven Spielberg, non so se lo ricorda, Prova a prendermi, cioè il grande truffatore che poi passa dall'altra parte e aiuta le autorità a scoprire i truffatori. Quindi è un pentito della truffa. Come? Un pentito della truffa, ecco. Sì, un pentito della truffa che però ha pagato il suo debito alla società, nel senso che Franca Bagnale si fece i suoi anni di galera, ma poi l'FBI, ricordandosi della eccezionale expertise, gli propose di collaborare. E le banche americane se lo sono contese, perché lui insegnava come difendersi dalle truffe che lui stesso aveva fatto. Cosa che difficilmente accade poi nella storia, perché poi i grandi truffatori vengono riabilitati dal fatto che continuano molte volte a ricoprire posti di grande responsabilità, e probabilmente questo vorrebbe far dimenticare alla pubblica attenzione il fatto che molte volte non sempre si sono comportati in maniera rettilinea. Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telefono da Livorno e volevo raccontare una truffa giovanile che vede me come protagonista e i miei amici. Come truffatore, spero. Sì, come truffatore. Oh, finalmente un truffatore, confesso, che non li trovavamo come mai. Come truffatore, quando d'estate, dal rientro dalla discoteca, andavamo a prendere le famose paste, i famosi cornetti. Quelli che in molti comuni vogliono proibire, il cornetto di prima mattina. Sì, quelli che fanno male, quelli che fanno male prima di dormire. E niente, noi avevamo trovato un modo, andavamo sempre dal solito panettiere, che le faceva molte buone, avevamo trovato un modo per ingannarlo, quindi non con la sua approvazione, anzi, poverino. Vabbè, gli fregavate i cornetti, come facevate? Forza. Semplicemente siamo entrati, notavamo quali gusti mancavano e chiedevamo proprio quello. Sapevamo che lui lo offriva, quindi lui andava dietro a preparare. Ah, vabbè, sì. Lui girava. Voglio il cornetto alla papaya, come si girava, ve li fregavate quelli alla crema. Sì, all'inizio notavamo se c'erano tante persone, non lo facevamo. Aspettavamo che ce ne fossero poche. Dopo, la banalissima sfida giovanile. Vabbè, questo più che altro, diciamo, è un infantile tacchinaggio, fregare, come andare al supermercato a fregare la roba, mangiarsi le cioccolate prima di arrivare alla cassa, non è proprio truffa. Gennaro, vediamo se lei può migliorare la situazione. Beh, io mi ricollego un po' un attimo a quello che il precedente radioascoltatore di Prato, che aveva evidenziato appunto una tentata truffa ai suoi danni. Bene, io mi occupo di criminalità organizzata e specialmente in ramo economico. Faccio libero professionista, sono libero professionista di Firenze. E, credo un anno fa fui avvicinato da un gentiluomo chiamandomi proprio per nome e cognome, egregio dottore, eccetera, eccetera. Mi avvicinò con questa macchina carica appunto di giubbotti, di shirling, eccetera, eccetera. Mi fece presente che io ero un suo datore di lavoro, gli avevo aiutato all'università tanti anni fa, perché comunque ebbe modo di conoscere la mia vita, questo signore. A un certo punto mi fa entrare nella sua auto, ero un po' un attimo attonito da questo comportamento. Entro nella sua bellissima auto e mi dice: guarda, oggi io praticamente non sono più quello di prima, mi fa, me sono un libero professionista anch'io, o sono un imprenditore di successo, ho recuperato tutto del mio passato, ti voglio omaggiare praticamente di queste cose qui, perché ti ho due giubbotti. Da tantissimi anni mi aveva cercato, poi insomma mi trovò secondo lui. Bene, a quel punto mi resi conto un po' un attimo del gioco, no? E ma cosa le chiedeva in cambio? No, niente, niente, assolutamente niente. Al momento non mi chiese nulla, ma mi piacque il giochino che lui stava proponendo. Sì, ma cosa le faceva? Cioè, la voleva fisicamente? Non ho capito la controparte dei giubbotti. La controparte dei giubbotti praticamente mi aveva detto che io avevo aiutato lui e mi voleva omaggiare di questi giubbotti, va bene? A questo proposito, che cosa venne fuori? Che mi invitò a salire sulla sua auto. E io gli entrai a far parte del suo gioco perché capì il mio interlocutore cosa voleva. Guarda, allora lasciamo un po' di suspense perché devo passare la linea al traffico. Così vediamo di capire, perché mi sfugge ancora capire qual è il motivo della truffa, cosa si porta a casa questo signore in cambio di questa lunga chiacchierata, questo sforzo che ha fatto per carpire i suoi dati biografici, anagrafici e professionali, e perché se l'è caricata in macchina, cosa avrà fatto di lei? Melog 2.0 800 24 0024. Stiamo parlando di truffe e notiamo un dato antropologico interessantissimo, che una delle truffe che statisticamente più viene riferita dal pubblico di Radio 24 è la truffa del giubbotto, cosa che ignoravo completamente. Girano per il nostro paese, per le nostre strade, signori ben vestiti con auto lussuose piene di giubbotti che ghermiscono illustri professionisti, li fanno salire in macchina per offrire cosa? Allora continuiamo praticamente l'evoluzione della cosa. Questo signore alla fine mi fa: guarda, io ti do questi giubbotti perché sono diventato grande, eccetera, eccetera. Alla fine mi chiese un assegno, ok, per poter dare in beneficenza alla Croce Rossa. Ecco, alla fine praticamente dei salmi mi chiese un assegno a mio buon cuore. Va bene, di dare questo, però ho visto che praticamente... Sì, come se la Croce Rossa accettasse assegni. Cioè... Esattamente, esattamente, però dietro c'erano anche altre tre persone in un'altra auto, sicché gli dissi: guarda, scendi un attimo così me lo spieghi meglio. Alla fine ha capito che avevo capito, si mise in macchina e la macchina che seguivano loro... Questo. Quindi era un'estorsione vera e propria, più che una truffa. Sì, sì, sì, andarono via. Quindi, anche perché il lavoro ha... precedente, diciamo, all'approccio era stato abbastanza capillare, per avere qualche informazione su di lei l'avranno studiata, quindi secondo me era qualcosa di molto più pesante. Grazie. Jenny, buongiorno. Buongiorno, siamo da Salerno. Volevo fare una precisazione. Non mi è piaciuta la definizione del truffatore data da uno dei precedenti ascoltatori. Perché, com'era? Ha detto: no, ho avuto un contatto con questo truffatore, naturalmente napoletano. Non voglio... Esiste una percentuale altissima di probabilità che alle sue latitudini accada questo. Sì. Mi è sembrato giusto una... Sì, ma io guardi, nessuno deve sentirsi... Che non c'è stato. Chiaro, nessuno deve sentirsi colpevolizzato per una circostanza... Lei ha ragione perfettamente, sì. Però capisce comunque che il luogo comune affonda su circostanze statistiche abbastanza oggettive. Ma i luoghi comuni tante volte rovinano... Sì, ma lei ha ragione, ma lei ha perfettamente ragione a essere indignata. La precisazione, a proposito di ciò, volevo ricordare un episodio che è capitato a mio fratello, che per il diploma liceale andò con i suoi cugini a Monaco per le Olimpiadi famose e... e lì subirono una truffa perché gli vendettero un orologio di platino con brillanti e loro ci cascarono. Cioè, volevo dire che questo era tedesco, però probabilmente figlio di emigranti napoletani. Ma adesso comunque, non facciamo, signora, non faccia la vittima, no, scherziamoci su. È una battuta, però insomma sì, luoghi comuni. Lo sa, perché anche il vittimismo fa fare la legge. Ha ragione, fare... ma lei ha ragione. Guardi, indignano anche a me i luoghi comuni. Sì, no, però anche il piangersi sempre addosso, dire non c'è, è così, è, fa parte delle possibilità che ci possono essere, che a certe latitudini è molto più facile, è quasi fisiologico, diciamo, che accadano certe cose, che ti fermino per strada e ti vendano qualcosa, ma questo non deve assolutamente colpevolizzare o far sentire in colpa le persone che con questo non hanno nulla a che fare. Do piena libertà di replica e di indignazione, però senza nemmeno farne poi un dramma. Giovanni. Sì, buongiorno. Avanti. Dunque, uno solo degli episodi molti che ho vissuto nella mia vita. Come vittima o come truffatore? Entrambi. No, allora parli delle cose, le truffe che lei ha fatto come truffatore, perché le vittime le abbiamo sentite anche troppe. Ho fatto il rappresentante di truffatori, nel senso che intorno ai 20 anni leggo un'istruzione sul giornale e vado subito per vendere corsi di inglese. E per 3 giorni sono andato in giro nella zona che avevano assegnato a vendere questi corsi di inglese nelle campagne, promettendo che si sarebbero svolti in quella zona. In realtà la tecnica era, con le piccole clausoline scritte dietro il contratto, era che incassava il 50%, poi il corso non si realizzava mai perché era a 100 km e nessuno poteva arrivarci. Sì, questa è una tipica truffa. Fine anni 70 si vendevano le enciclopedie, si vendevano i corsi d'inglese, si vendevano i corsi d'inglese che davano una macchinetta terrificante con cassette vecchissime, simulando che c'era dietro l'enciclopedia britannica, non c'entrava niente perché era graficamente scritta diversa, lo so perché riuscì a salvare proprio per rotto la cuffia un mio familiare da questo. Domenico Vecchioni, ambasciatore italiano a Cuba, che ci ascolta con attenzione, che però è uno storico della truffa, avendo scritto I Signori della Truffa. Non riesco a tirare fuori però qualcosa di veramente forte, veramente clamoroso. Questo porterebbe a sottolineare la sua deduzione, la sua teoria, che in fondo il grande truffatore è quello che non si scopre mai. Questi sono piccoli e dilettanti, la truffa, quelli di cui stiamo parlando. Beh sì, diciamo che le mie storie riguardano truffe di altro genere, di altro... anche storiche o divertenti, o penso per esempio ad una storia che ha dell'incredibile, ma ha fatto ridere tutta l'Europa negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale. Un clown tedesco, Otto Witt, che diventa per 3 giorni il re d'Albania, sfruttando la sua somiglianza con il principe che pretendeva il trono dell'Albania. Per 3 giorni viene incoronato re d'Albania. Cioè viene proprio incoronato, un clown. Sì, incoronato, ma sono storie vere, ci sono delle testimonianze, ci sono i diplomatici che nelle loro memorie raccontano di aver partecipato a questa cerimonia. E per tutta la vita rimase l'ex re d'Albania. Ancora oggi ad Amburgo, nel cimitero di Otto Witt, la dizione che c'è sulla sua tomba è ex re d'Albania. Quindi da qua si rasenta il genio, si rasenta, ambasciatore. Ma infatti il mio interesse era piuttosto per questo tipo di truffa, a volte i truffatori sono geniali, sono creatori, perciò le dicevo prima che a volte la fantasia che imita la realtà, perché i truffatori inventano delle storie incredibili. Poi mi sembra di capire, appunto, in conclusione, che questa genialità nel truffare è un atto eroico e artistico fino a se stesso, non è che poi alla fine ci sia un danno economico notevole nelle persone truffate, è come quelli che vanno alle feste perché assomigliano a personaggi dello spettacolo fingendo di essere personaggi famosi, alla fine loro basta vivere l'euforia di essere qualcosa che in realtà non sono. Sì, a volte il truffatore agisce per il gusto della truffa riuscita, per il bel gesto della truffa riuscita, non sempre per uno scopo economico, di trarre dei benefici dal truffato. Ne ho visto in questa galleria di grandi truffatori che spesso c'è questo sottofondo. Grazie ambasciatore Domenico Vecchioni, ci saluti Cuba, la invidiamo tantissimo, ringrazio Paolo Corleone e Fabrizio Intonti, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.